87.9 la modulazione di frequenza, Radio Onda Rossa dal 1977, libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Per contribuire a farla vivere potete sottoscrivere sul numero di conto corrente postale 6180 4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00985, Roma, oppure basta andare sul sito internet della radio ondarossa.info. sulla home page c'è l'opzione sostieni con la modalità PayPal. Siamo all'appuntamento con il cinema ogni giovedì dalle 14 alle 15, giovedì 13 febbraio del 2014. I nostri riferimenti per la scaletta potete consultare il sito della radio, la voce trasmissioni visionari, trovate gli ospiti di quest'oggi, le uscite in sala di oggi giovedì 13 febbraio, i nostri suggerimenti e indicazioni sui film già in programmazione a Roma e provincia, i film in TV per quanto riguarda il piccolo schermo e poi gli altri appuntamenti della settimana tra festival, proiezioni e rassegne, e poi il link per riascoltare la puntata precedente ma anche quelle del 2013 e 2014. Idem su Facebook per visionari, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Cominciamo in collegamento con Maria Vicari, co-regista del documentario Dégage si barrica, che sarà programmato al Titanic Cinema di Porto Fluviale, un'occupazione nel cuore di questa città. Maria, intanto benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, ciao a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Allora, raccontaci un po' di questo lavoro. Ma sì, guarda, intanto ci tenevo, insomma, come mi dispiace un po' dover fare questo intervento oggi dopo i fatti di questa mattina. Che stiamo seguendo da tutta la mattina, chiaramente. Ottobre, quindi sì, sì esatto, sì. Vi sto seguendo da stamattina e quindi, insomma, intanto un pensiero ai fatti di oggi, certo. E vediamo poi come prosegue la giornata. E il documentario, come insomma dice anche il titolo, parla sostanzialmente dello studentato occupato di Dégage, che è nato nel corso della seconda ondata dello tsunami tour, quindi il 6 aprile dell'anno scorso, e è la storia soprattutto di uno dei ragazzi che vivono a Dégage e che io e l'altro regista Luca D'Amico abbiamo preso diciamo come pretesto, un po' uno spunto che ci permettesse di parlare un po' anche alle persone che hanno meno familiarità con il tema e con la pratica dell'occupazione, per raccontare insomma un po' quello che si stava facendo a Dégage in quel periodo e quindi la vertenza specifica sul diritto allo studio e il loro percorso, ma anche poi tutta la questione della lotta, del movimento lotta per la casa a Roma. Sì. Senti, come è nata questa esigenza, intanto ti chiedo, e poi quali sono le caratteristiche di Dégage rispetto alla lotta per il diritto allo studio e più in generale rispetto al movimento di lotta per la casa? Sì, allora guarda, l'idea del documentario è nata in realtà quasi subito, molto presto rispetto al momento dell'occupazione, perché io conosco bene alcuni dei ragazzi che ci vivono, uno di loro tra l'altro è mio fratello, per cui l'ho conosciuta abbastanza presto, appunto dopo il 6 aprile, e quasi subito con Luca ci siamo detti che insomma sarebbe stato interessante provare a raccontare un po' una realtà che per alcuni aspetti era appunto peculiare nell'ambito del movimento lotta per la casa, no? Perché sì, ha tutta una serie di caratteristiche legate appunto al fatto di essere uno studentato, e poi anche visivamente colpisce molto l'impatto rispetto al quartiere nel quale si trova, che insomma è il Nomentano, quindi è un quartiere dove all'inizio immaginarsi un'occupazione per noi, almeno da fuori, era abbastanza così, insomma, suggestivo, se non un po' in contrasto con l'idea proprio visiva che avevamo del posto prima di vederlo. Sì, sì, sì. E quindi poi insomma, dopo aver conosciuto i ragazzi, quando ci è venuto lì abbiamo iniziato a seguirli un po'. Loro tra l'altro sono stati bravissimi e disponibilissimi, per cui ci hanno lasciato abbastanza entrare così anche a seguire un po' l'organizzazione che si stavano dando e il tipo di vertenza appunto che stavano portando avanti con la Regione Lazio sul diritto allo studio. Mm-hmm. E guarda, su questo loro ovviamente sono molto più bravi a fare comunicazione. Certo. Per se stessi, però il discorso è che loro hanno aperto una vertenza insieme agli altri studentati occupati di Roma, che sono 7 in tutto, con la Regione Lazio e con Smeriglio in particolare. Poi a novembre dell'anno scorso è stato occupato anche lo studentato occupato a Via De Lollis, l'ala che non era stata assegnata, e sostanzialmente adesso stanno contrattando appunto per l'assegnazione di più posti agli studenti che risultano vincitori, ma idonei ma non vincitori di borsa di studio. Nel Lazio vivono circa 90.000 studenti fuori sede, studiano nelle università laziali a fronte di poco più di 1.000 posti alloggio garantiti. Mm-hmm. Per cui insomma la vertenza più grossa è su questo. Mm-hmm. Oh, senti, come quanto tempo per cui no, non ho capito, scusami. No, chiedo scusa perché sto con la tosse, ma non per cui però ti sentiamo abbastanza bene. Senti, volevo chiederti quanto siete stati impegnati nelle riprese e poi sono basate più sulla una cronaca del quotidiano o anche ci sono interviste agli occupanti? Sì, allora guarda, le riprese sono durate un paio di mesi. Sì. Il grosso delle riprese è stato fatto un paio di mesi, quindi a partire diciamo da maggio fino a luglio dell'anno scorso. E, il pretesto che abbiamo usato per raccontare tutta la storia di The Cage è stato la storia di un singolo, uno dei ragazzi, sì, sì, che ci vive, appunto, come ti dicevo prima, per cui in buona parte seguiamo lui. Okay. E poi però a questo si affiancano le interviste a altri due dei ragazzi che ci aiutano un po' a costruire anche il contesto nel quale si è svolta l'occupazione, nel quale poi loro si sono organizzati appunto con la vertenza del diritto allo studio e rispetto agli altri movimenti lotta per la casa. Mm-hmm. Quindi nelle interviste diciamo viene fuori un po' il racconto più del percorso politico dell'occupazione, mentre il piano biografico lo raccontiamo seguendo uno degli abitanti di The Cage. Allora, ricordiamo la proiezione di domani, venerdì 14, al Titanic Cinema di Porto Fluviale, a Via del Porto Fluviale. A questo punto, non mi ricordo però l'indirizzo, il numero civico di Via del Porto Fluviale. È il numero 22. Al numero 22. Sarà alle 19. Alle 19. E a questo punto ti chiedo anche informazioni online, se ci sono, rispetto a questo lavoro. Sì, guarda, c'è per il momento una pagina Facebook che è dedicata alla proiezione di domani, però in realtà. Okay. Perché è la prima che stiamo facendo e ancora non esiste una pagina Facebook dedicata al documentario. E lo trovate su The Cage si barrica, basta digitare insomma il titolo del documentario e su Facebook si apre la pagina della serata di domani. Maria, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, a presto, ciao. Ciao, ciao, ciao. Maria Vicari, co-regista del documentario The Cage si barrica. In collegamento con Andrea Romeo di I Wonder Pictures per parlare della distribuzione del documentario The Square in uscita in sala oggi giovedì 13 febbraio. Andrea, ben ritrovato. Ben ritrovato. E in realtà il film è al Festival di Berlino. Sì. Dove è stato accolto con grandissimo successo. Sì. E quindi il film sarà presentato in anteprima in molte città, tra cui Roma, al Cinema Nuovo Aquila. Subito dopo Berlino, quindi il martedì 18 febbraio, e poi dal 20 febbraio al Cinema Nuovo Aquila ogni giorno per speriamo molto tempo. Il film The Square è un film complesso e molto molto fortunato. Ha esordito un anno fa al Sundance raccontando appunto la rivoluzione egiziana e la caduta di Mubarak e il dopo caduta di Mubarak. E quello che è successo è che proprio quest'estate, appunto, lo scenario è completamente cambiato. La piazza a cui il film si ispira, piazza Tahrir, il film si chiama appunto The Square, è stata di nuovo popolata da una nuova fase di proteste e di scontri, e da qui la necessità di in qualche modo rileggere anche tutta la storia, che adesso nell'ultima fase ha visto chi prima era in piazza assieme contro Mubarak spezzarsi tra fratelli musulmani e appunto altri manifestanti, altri rivoluzionari contrari a Morsi e ai fratelli musulmani. Uno scenario, quello egiziano, molto complesso, che finalmente per la prima volta il film racconta, ma che non mi azzarderei a dire spiega. Non è uno spiegone, ecco, per intenderci, è un film che ti porta nella rivoluzione, è un film che ti racconta l'emozione di un paese fatto soprattutto da giovani e giovanissimi che hanno voglia di cambiamento. È la storia anche della complessità che si fa a cambiare le cose, la complessità che anche animati dalle migliori intenzioni qualsiasi generazione ha nel migliorare, nel cambiare il mondo così come lo trova. Dicevo, con grande sorpresa di tutti, il film è arrivato con un montaggio completamente nuovo e tantissime nuove sequenze, storie, allo scorso Festival di Toronto, dove ha vinto il premio del pubblico, e poi una cavalcata infinita, è diventato il film di Netflix a livello americano e internazionale, questa piattaforma che distribuisce attraverso il web, è ormai diciamo la major, diciamo la televisione internazionale via web più popolare per le serie e per i documentari, e che ne ha fatto un vero e proprio fenomeno, tappezzato Los Angeles, New York, di queste storie, di questi volti. Il film è candidato all'Oscar e proprio tra qualche settimana potrebbe giocarsi la statuetta. Andrea, a fronte della velocità degli eventi, ci sono elementi di questo documentario che mantengono la loro forza e la loro attualità, e invece altri aspetti che sono stati superati dai fatti? No, appunto, è tutto assolutamente non storico, non necessariamente solo storico. E il pregio e la cosa anche, lasciatemi dire, sconcertante di questo film è che, come il cinema non faceva da un po', ti porta dentro la rivoluzione, spiegandoti in qualche modo la forza anche emotiva di quei giorni e dei protagonisti. Ecco, la cosa bella secondo me è che è un film molto narrativo. Non è un film che parla di massa, è un film che parla di alcuni protagonisti, uno dei quali, Magdi, che è diciamo il più vicino ai fratelli musulmani in questo momento, è ricercato in Egitto ed è latitante. Il giovane protagonista non prova a raccontare l'intera rivoluzione, ma la viviamo con lui. Mm-hmm. e lo fa ovviamente con momenti anche molto crudi, ma con momenti anche molto dolci e con, come dire, tutta quella magia della voglia di far cambiare le cose di una generazione, e in qualche modo trovo che la regista, in odore ormai di Oscar, abbia saputo lavorare soprattutto con un grande diciamo direttore della fotografia, operatore di macchina che è Mohamed Hamdi, che è dietro molti dei film della primavera araba, anche dei prossimi che arriveranno nei prossimi mesi. Appunto Mohamed Hamdi, che durante le riprese del film si è preso anche una pallottola in testa, mannaggia lui, che oggi sta benissimo ed era con un nuovo film lo scorso Sundance qualche settimana fa, ma in qualche modo si è mischiato alla rivoluzione, ha agito lui stesso con la sua camera, che è diventata la sua arma, una rivoluzione. Ho provato e provo a raccontare qualcosa che è un'esperienza devo dire sconvolgente anche per chi di documentari su storie, rivoluzioni o manifestazioni ne ha viste più di quante ne ha fatte. Di fatto c'è una forza in questo film che racconta anche all'Occidente, secondo me, la grande voglia di cambiamento di questi paesi e di un grandissimo paese come l'Egitto in particolare. Ecco, proprio a questo proposito, Andrea, le tre elementi che mi vengono in mente rispetto alla prima era araba, volevo sapere se emergono anche con forza dal documentario, ossia la forza di auto-organizzazione dei popoli, la laicità di alcuni settori, alcuni movimenti e la presenza delle donne come elemento fondamentale. Ma assolutamente sì, tutte queste tre cose. Ovviamente la parola laicità è completamente un'accezione diversa in ogni paese, in ogni cultura in cui vai. Diciamo che l'intera, questo diciamo, possiamo dirlo con approssimazione, l'intera piazza Tahrir era ed è per il 98% sempre credente musulmana. Ciò non vuol dire che sia poi diciamo affiliata o sostenitrice dei Fratelli Musulmani. Ne parlo giornalisticamente senza avere esperienza diretta e cognizione diretta di questi equilibri. Quello che si capisce è che hanno lottato assieme giovani che volevano un Egitto più moderno, più libero, ovviamente sganciato dalle brutture del regime totalitario di Mubarak, e che non volevano un Egitto islamico con la Sharia e con una predominanza dei Fratelli Musulmani, e i Fratelli Musulmani stessi che volevano la fine del regime di Mubarak, ma che avrebbero e hanno tutta l'intenzione di trasformare l'Egitto in uno stato islamico. Mm-hmm. Due come dire, punti di vista diversi che a un certo punto hanno finito per confliggere. La cosa che emerge dal film è che questa rivoluzione è lunga e sarà lunga perché, come dice uno dei protagonisti, in un paese che non ha accesso all'informazione, alla cultura e al confronto da decine d'anni, la necessità di appunto agire direttamente la cittadinanza in piazza è qualcosa che avrà bisogno di maturare molto tempo prima di approdare a qualcosa di risolutivo. Bene, allora Andrea, ricordiamolo, in questi giorni al Festival di Berlino, martedì prossimo, per quanto riguarda la città di Roma, ci sarà un'anteprima al nuovo Cinema Aquila, e lì sarà in programmazione a partire dal 20, se ho capito bene. A partire dal 20, tutte le informazioni comunque su Facebook o su internet, iwonderpictures.it o iwonder su Facebook. Ovviamente anche nel sito dedicato di The Square su mymovies.it/The Square. Un abbraccio, alle prossime novità. Grazie, a presto. Ciao. Andrea Romeo di I Wonder Pictures sulla distribuzione del documentario The Square. Visionari su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. In collegamento con Nicola Angrisano, regista del documentario Next Stop Lampedusa, proposto da Distribuzioni Dal Basso per quanto riguarda il mese dedicato al tema delle migrazioni. Nicola Angrisano, che però ha una voce di donna, perché precisiamo subito che è una sigla collettiva di un'esperienza all'interno di Insu TV. È giusto? È giustissimo, Nicola Angrisano in effetti è a Napoli, rompe nel Mediascape nel 2003 e con lui appunto nasce Insu TV, quindi Nicola Angrisano e Insu TV sono praticamente due soggetti completamente legati tra di loro e legati soprattutto al movimento e ai soggetti che non hanno diritto di cittadinanza nell'informazione mainstream. Così nasce Nicola Angrisano e anche il progetto Insu TV. nasce quindi 10 anni fa proprio per dar voce a chi non ha voce solitamente. Allora Nicola, mi piace darti del Nicola, Next Stop Lampedusa, allora di cosa parla questo lavoro e come lo avete realizzato? Allora, Next Stop Lampedusa è stato realizzato circa 3 anni fa, nel 2011, ben su TV e Radiazione, un'altra esperienza di comunicazione dal basso, durante, proprio a Lampedusa, durante gli sbarchi dalla Tunisia che seguirono la primavera araba e la caduta del regime di Ben Ali, quindi dopo il a gennaio praticamente. Noi siamo stati a Lampedusa a marzo e il documentario appunto racconta un'isola trasformata in isola di confino sia per i migranti tunisini che stavano arrivando in quel periodo, ma anche per gli stessi abitanti. Per cui in questo documentario, in questa videonarrazione, si ritrova, come dire, il volto reale delle traversate in mare, no? Attraverso la voce di chi le ha affrontate, quindi si trovano proprio le voci dei tunisini, gli occhi di un ragazzino tunisino che racconta la sua esperienza, i suoi ricordi e le sue sensazioni di paura, le sensazioni di paura che aveva vissuto proprio durante la traversata. Però emergono anche contemporaneamente, attraverso le immagini e le interviste, le pessime condizioni appunto a cui venivano sottoposti i tunisini durante la loro permanenza a Lampedusa. Infatti nel documentario uno di loro dice, le definisce appunto condizioni peggiori di un carcere, e in effetti la situazione a Lampedusa era veramente una situazione assurda e surreale, per cui abbiamo un po' raccontato attraverso le loro voci la delusione, il dolore, la rabbia di chi aveva attraversato il mare in cerca di libertà e invece si era trovato su un'isola abbandonati a loro stessi in strutture di fortuna. Infatti molti dormivano all'aperto perché il centro di accoglienza era stracolmo di persone e non c'era nessun programma poi di spostarli in modo da decongestionare un po' la struttura. Non potevano fare docce, non c'erano abbastanza bagni, che so, i pasti non erano sempre assicurati a tutti, insomma veramente condizioni terribili. Contemporaneamente si dà voce anche poi agli isolani, agli abitanti di Lampedusa, che nonostante le difficoltà quotidiane che vivevano a prescindere poi dagli sbarchi, erano comunque, hanno dimostrato poi la loro accoglienza per persone che comunque avevano affrontato il viaggio, avevano affrontato la traversata. E infatti proprio un abitante di Lampedusa aveva, come dire, ben chiara la situazione. Infatti nel video appunto dice: loro non vogliono restare qua, vogliono andare in Francia, al nord, perché effettivamente i loro programmi non era, nel loro programmi, nel loro progetto migratorio non c'era l'idea di restare sull'isola, bensì di andare via, di ricongiungersi a loro parenti in Francia piuttosto che in Belgio o in altri posti. Mm-hmm. Diciamo che come dire, con questo documentario il CTV ha voluto raccontare uno spaccato delle migrazioni che molto spesso è totalmente assente nei media mainstream, e che invece il documentario ha dato spazio a queste voci. È appunto una videonarrazione di 3 giorni, perché poi noi non siamo stati tantissimo tempo lì, e con questa videonarrazione abbiamo voluto denunciare la spettacolarizzazione e la speculazione politica della cosiddetta emergenza invasione, come veniva definita in quei giorni, e rivendicare un diritto all'accoglienza che molto spesso viene negato ai migranti. Mm-hmm. Diciamo, il documentario è uscito, ha girato tantissimo, è stato selezionato anche a dei festival, anche un festival in Marocco a Curibca, oltre che al Globale Film Festival di Berlino, e ora, come tu dicevi appunto prima, è disponibile su distribuzioni dal basso. Oh Nicola, mi dicevano anche che tu sei stata a Lampedusa anche di recente. Volevo chiederti, ecco, rispetto ai tempi delle riprese e la situazione attuale, che scarto hai notato? Guarda, io sono stata lì un po' per seguire i lavori della cassa di Lampedusa, quindi a fine gennaio. Ovviamente, diciamo, era un'isola che non era sotto i riflettori mediatici, quindi si poteva tranquillamente chiacchierare con la gente, con gli isolani, e riemergevano questa volta invece racconti della tragedia del 3 ottobre, che ovviamente ha segnato l'isola, ha segnato un po' tutti gli abitanti, quindi dalle chiacchiere è emerso molto ancora, no, questa rabbia nei confronti comunque del governo, che diciamo, li lascia lì, è un'isola abbandonata, e loro ne soffrono di questa cosa, perché è un'isola in cui, a prescindere ora dalle migrazioni, dai flussi, dagli sbarchi, è un'isola abbandonata a se stessa, con problemi che vanno ben oltre l'immigrazione. Allora, ricordiamolo, sul sito di Distribuzioni dal Basso, c'è la possibilità di vederlo, Next Stop Lampedusa, e c'è anche un vostro sito internet per saperne di più, avere maggiori informazioni anche sull'esperienza Nicola Angrisano e Insu TV? Sì, il sito è www.insutv.it. Perfetto. Dove è possibile seguire le nostre narrazioni, le nostre produzioni. Ovviamente, diciamo, prima 10 anni fa eravamo una telescritta, poi con il passaggio al digitale molte cose sono cambiate, e quindi continuiamo a fare video, continuiamo a fare produzione, a collaborare anche con altri soggetti sul territorio, ma non siamo più una telescritta, ma continuiamo a vivere, ad essere presenti sui territori. Un abbraccio, alla prossima. Grazie mille, a presto. Ciao. In bocca al lupo anche a voi. Ciao. Ciao. Nicola Angrisano, regista del documentario Next Stop Lampedusa, proposto dalla piattaforma di Distribuzioni dal Basso. In collegamento con Francesco Marchetti della Fox per quanto riguarda la distribuzione in sala da oggi, giovedì 13 febbraio del 2014, di Monuments Men di George Clooney. Ci sei, Francesco? Sì, eccomi qua, buongiorno a tutti. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. Allora, Francesco, intanto, per chi ci ascolta, tra l'altro non ho avuto modo di vedere l'anteprima stampa, per cui sono molto curioso di questo film, come lo racconteresti a chi ci ascolta? Dunque, si tratta di un film molto particolare, soprattutto per la storia che racconta, che è una storia vera, è la storia di una divisione dell'esercito americano, chiamata appunto Monuments Men, che sul finire della Seconda Guerra Mondiale fu messa in piedi per impedire, soprattutto agli alleati che in quel periodo stavano bombardando soprattutto Francia e Italia, di distruggere nei bombardamenti i capolavori d'arte. Per cui sostanzialmente fu messa in piedi questa divisione, costituita da pochissime persone che avevano inizialmente lo scopo di individuare i posti che non dovevano essere bombardati. Il film ci racconta come poi questa divisione si trasformò in una cosa diversa, e cioè cominciò ad indagare su tutti i tesori d'arte che i nazisti avevano rubato, e che, secondo un editto che Hitler aveva emanato verso la fine della sua vicenda, avrebbero dovuto essere distrutti nel momento in cui lui fosse stato ucciso. Qui la verità è che queste persone hanno messo in salvo migliaia e migliaia di capolavori della storia dell'arte, che sono adesso esposti in tutti i musei del mondo. Oh, Francesco, leggendo una delle recensioni c'è una citazione che secondo me è significativa e sta un po' a sintesi di quella che è tutta l'operazione, e te la leggo. Puoi sterminare un'intera generazione, bruciare le loro case, ma troveranno una via di ritorno. Ma se distruggi la loro cultura, la loro storia, è come se non fossero mai esistiti. È questo che vuole Hitler ed è questo che combattiamo. Sì, ed effettivamente la frase, che è una delle frasi del film, è uno dei perni della vicenda. In effetti il film si apre tra l'altro con due scene che si svolgono in Italia, cioè il bombardamento di Monte Cassino e il rischio che aveva corso il cenacolo di Leonardo da Vinci durante i bombardamenti a Milano, che, come sapete, si salvò miracolosamente dal bombardamento. E questi furono due degli accadimenti del 44 che spinsero appunto gli americani a mettere in piedi questa divisione. Per cui l'Italia ha tra l'altro proprio un ruolo centrale nel film e nella vicenda vera, per cui era proprio la paura di perdere qualcosa che non avrebbe mai potuto essere recuperato, che ha spinto gli americani a creare questa divisione. Perché il film naturalmente lo racconta nello stile che è proprio di Clooney, cioè quello di mischiare l'approccio alto, diciamo così, anche storico, con ovviamente un cast all star, dove devo dire i momenti godibili sono parecchi. Ecco, proprio a questo proposito, Francesco, al di là delle esigenze di spettacolarizzazione hollywoodiane, George Clooney dietro la macchina da presa, già dalle sue prime, dai suoi primi lavori, ha dimostrato una forte intelligenza e sensibilità. Sì, sempre, devo dire la verità. Qui il tema sociale non è ovviamente preponderante come l'è stato in Good Night, Good Luck o in altri film di Clooney. L'elemento però storico e la particolarità della vicenda, che pur essendo stata una vicenda chiave della Seconda Guerra Mondiale è praticamente sconosciuta ai più se non a tutti, è di nuovo qualcosa di classico di Clooney, cioè come autore intendo dire, cioè Clooney autore è comunque sempre alla ricerca di storie che facciano emergere quello che è dietro la storia conosciuta dai più, e questa è un po' la continuità che c'è anche con questo film sicuramente. Da oggi nelle sale in quante copie, Francesco? 400 copie da oggi. Bene, allora avremo modo magari nel corso della stagione di contattarti nuovamente, un abbraccio. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. Francesco Marchetti della Fox per la distribuzione in sala di Monuments Men di George Clooney. Torniamo a vicende italiane, ne parliamo con il regista Giuliano Bugani, perché si tratta della campagna di finanziamento per un documentario dal titolo Mani sulla Sanità. Giuliano, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, ciao a tutti. Allora, tra l'altro abbiamo saputo anche, non solo dalla tua comunicazione via email, ma anche da un tuo collaboratore, che avete messo su un sito internet dedicato ai vostri lavori. Sì, allora intanto volevo precisare che la regia è sia mia che di Daniele Marzeddu. Benissimo. Siamo i due registi del documentario Mani sulla Sanità. E è stato caricato sul sito produzionidalbasso.com. E chi vuole aiutarci a finanziare questo progetto è ben accetto, perché nessuno ci finanzia. Noi come al solito facciamo questi documentari di controinformazione, e comunque ho già delle buone risposte, perché ieri sera il sindacalista dei Cobas di Bologna mi ha detto che un gruppo di infermieri che hanno visto il trailer si autotasseranno per finanziarci parte del progetto. Allora, tu tra l'altro sei uno dei nostri ospiti preferiti, perché ci piace e ti piace e ci piace soprattutto definirti operaio regista. Questa vicenda è particolarmente delicata anche perché si sta verificando in Emilia-Romagna e rappresenta un po' un laboratorio per quella che potrebbe essere una tendenza in tutto il paese. Esattamente, allora il progetto del presidente della regione Errani, il Partito Democratico che governa la regione Emilia-Romagna, prevede un taglio di 250 milioni di euro sulla sanità e con la chiusura di 25 ospedali pubblici su 61 e la chiusura di quasi 3.000 posti letto. E domani mattina davanti alla regione c'è già una manifestazione di uno dei primi ospedali che verrà chiuso, che è quello di Porretta Terme, è una zona montana tra l'Appennino tosco-emiliano, e dove chiudono la maternità, ma diciamo che è un processo lento che è partito alcuni anni fa in sordina e si sta concretizzando in questi ultimi due anni, quest'anno e il prossimo anno. E se passerà in Emilia-Romagna questo progetto di chiusura della sanità, passerà in tutta Italia, perché quello sull'Emilia-Romagna è un progetto pilota avanzato di stretta accordo tra la presidenza Errani e la presidenza del Consiglio Letta. Oh, dicevi Giuliano del trailer, rispetto alle riprese, in che ambito vi state muovendo e dove state puntando l'occhio? Dunque, siamo appena partiti, perché siamo partiti con il trailer appunto per raccogliere i finanziamenti, e abbiamo già delle richieste di presentazione del trailer, ma abbiamo già chiamate da Forlì, da Lugo, da Fiorenzuola, Piacenza, dove verrà chiuso un altro ospedale. Ti sto citando i comuni dove verranno chiusi ospedali, eh? Sì. Modena, Ferrara, Comacchio, dove c'è addirittura a Comacchio l'unico ospedale che verrà chiuso, è presidiato 24 ore al giorno da un comitato di cittadini contro la chiusura. Quindi andremo in questi posti nelle prossime settimane. E poi abbiamo chiesto anche un'intervista a tutti i gruppi consigliari della regione Emilia-Romagna, dal PDL a Forza Italia, ai 5 Stelle, a Rifondazione, che mi dispiace dirlo, Rifondazione ha votato a favore della chiusura degli ospedali insieme al Partito Democratico, e stiamo aspettando una risposta da tutti i consiglieri per fare appunto interviste. Vorrei ricordare però una cosa molto importante, che sulla vicenda sanità l'assessore Lusenti è indagato per falso e non si è dimesso. Rispetto, ecco, dicevi dei finanziamenti, siete totalmente autofinanziati e vi stanno mettendo i bastoni tra le ruote in qualche modo? Ma diciamo che non abbiamo qualcuno che ci mette i bastoni fra le ruote, nel senso che non... siamo partiti così da un comitato di Bologna che ha visto la chiusura, ha visto un inizio di processo di chiusura del poliambulatorio del proprio quartiere, e da lì è partita l'idea di fare un documentario poi a livello regionale, perché si è venuto a sapere che questa chiusura del poliambulatorio rientra in un progetto regionale. Quindi non è che per adesso nessuno ci mette i bastoni fra le ruote. Posso dire sicuramente una cosa, che la stampa, tutta la stampa ci sta completamente ignorando. Noi abbiamo fatto dei comunicati stampa a tutti i giornali, tutti, destra, sinistra, c'è tutti, e tutti ci stanno ignorando. Però stiamo vedendo che c'è una grandissima risposta dei cittadini là dove chiediamo un aiuto economico, che non chiediamo, il progetto costa 3.600 euro, sì. non chiediamo cifre enormi. Delle cifre, Daniele Marzetto, che regista commedia documentario, è un lavoratore precario, io sono in mobilità, non facciamo documentari per diventare ricchi, facciamo documentari per sostituire quella che è la falsa informazione e quella che manca, cioè l'informazione, perché questi cittadini si vedono chiudere gli ospedali improvvisamente e si formano improvvisamente dei comitati senza che la stampa ne parli. Ti faccio un esempio, se ho tempo. Posso fare un esempio velocissimo? Certo, come no? Cioè, sì. L'ospedale maggiore di Bologna, che è uno dei più grandi importanti ospedali di Bologna, in dicembre Repubblica.it, quella online, ha pubblicato per 30 minuti una notizia sulla chiusura della chirurgia del quarto piano dell'ospedale maggiore, che ha circa 16 piani l'ospedale. Hanno mantenuto la notizia 30 minuti, poi è stata tolta da internet e non è mai più stata messa in rete. Questo per dirti che i COBAS hanno pagato un giornale, non faccio nomi, hanno pagato un giornale, i COBAS di Bologna, il sindacato COBAS del Rizzoli, ha pagato 800 euro un articolo dove informavano la cittadinanza di quello che sta avvenendo, no? Che Errani vuol chiudere gli ospedali. Il giornale ha preso i soldi, ha promesso di pubblicare l'articolo e così non tre giorni dopo ha telefonato ai COBAS restituendo i soldi e dicendo che l'articolo non sarà mai stato pubblicato. Giuliano, sì, è indicativo. Dicevi però che comunque c'è una raccolta fondi che sta funzionando, e dagli esempi che citavi ci sono anche molti cittadini che si stanno auto-organizzando in questo senso rispetto al problema sanitario. Ma infatti guarda, è incredibile come improvvisamente si stia creando un movimento di base, perché tu sai meglio che me che la sanità è una delle più grandi conquiste del dopoguerra, la sanità sì. pubblica. E lo smantellamento della sanità pubblica da parte del Partito Democratico qui in Emilia-Romagna è una cosa inaccettabile, perché il Partito Democratico qui ha la maggioranza, governa da 55 anni e è impensabile che possa passare un progetto del genere. Mm-hmm. Se noi riusciamo a fare questo documentario entro l'autunno, entro l'estate, c'è, secondo me, io ho la sensazione che questo governo del PD sia a rischio, che questo documentario possa mettere, possa fare cadere anche un anno prima il governo PD. Mm-hmm. Perché dalla sensazione che ho, da quello che mi viene detto dal movimento che si sta formando in regione, penso che questo documentario faccia molta paura. Bene, allora Giuliano, in chiusura ricordaci le modalità per poter contribuire alla realizzazione di questo lavoro. Ma guarda, intanto ti ringrazio moltissimo dell'opportunità che mi offri. Chi è interessato a aiutarci a versare una quota di 12 euro per il finanziamento di questo documentario può cercare su internet produzionidalbasso.com. Il titolo del progetto si intitola Mani sulla sanità. Benissimo. Giuliano, ne parleremo prossimamente anche per le novità, che sei sempre puntuale nel farci conoscere. Io ti abbraccio e a risentirci presto. Grazie Federico, grazie tanto. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Il regista Giuliano Bugani sulla campagna di finanziamento del documentario Mani sulla sanità. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Il cinema su Radio Onda Rossa il giovedì dalle 14 alle 15. Anna Maria Granatello, direttrice del Premio Solinas, per parlarci Focus Premio Salinas documentario per il cinema, che è cominciato all'Apollo 11 qui a Roma ieri 12 febbraio, andrà avanti fino al 6 marzo. Anna Maria, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, ci eravamo sentiti anche per le altre edizioni, partiamo dallo spirito del Premio Solinas documentario per il cinema. Beh, lo spirito diciamo, noi siamo arrivati alla ideazione di questo premio per la scrittura del documentario con l'idea di favorire progetti di documentario per lungometraggio e che potessero andare in sala. Sì. E abbiamo costruito un bando di concorso che inducesse i documentaristi a pensare a scrivere un progetto meglio organizzato e che potesse essere questo progetto anche letto dai finanziatori. Perché al di là di quello che noi facciamo, di individuare dei progetti che ci sembrano interessanti, che abbiano un punto di vista dell'autore preciso, che poi andiamo ad indagare quando facciamo il pitch e poi premiamo, eccetera, desideravamo creare uno strumento, una griglia di lettura dei progetti di documentario anche per chi li deve finanziare. Perché fino diciamo a 10 anni fa i progetti venivano presentati, a parte che con Arte, che però c'aveva dei limiti e dei paletti ben precisi, come progettini di 4-5 pagine. Invece noi abbiamo chiesto un trattamento, un punto di vista, una cosa, come dire, un po' più corposa. Sì. Questo effettivamente noi crediamo, dato il successo di questo premio, perché tutti i premi che abbiamo dato, cioè a tutti i film che abbiamo premiato, sono stati tutti realizzati. Mm-hmm. E quest'anno fantasticamente 5 dei nostri premiati hanno vinto tutti i festival nazionali e internazionali. tra cui TIR, che ha vinto il Marco Aurelio d'Oro, è stato un nostro primo premio nel 2010, oppure Mon Mur à Moi, che farà parte di questa rassegna, e I Fantasmi di San Berillo, che ha vinto Torino. Quindi ecco, proprio diciamo a questo che ne abbiamo abbiamo sicuramente incoraggiato chi ha scritto i progetti, che si è sentito rafforzato. Dall'altra parte, in alcuni casi hanno trovato un produttore che è riuscito a trovare dei finanziamenti a partire dai nostri premi. Senti Anna Maria, ti chiedo intanto quante sono le opere che presenterete in questo quasi mese di programmazione, da ieri 12 febbraio al 6 marzo, e poi come è strutturata cioè il calendario di proiezioni, quali sono le giornate e che orari ci sono? Allora, le opere che presentiamo sono 5. Abbiamo cominciato ieri sera con Cadenas, e il prossimo mercoledì sarà proiettato il Fantasmi di San Birillo, e a seguire Mon Mur à Moi, per finire poi con il documentario che ha vinto la prima edizione del premio Solinas. Le proiezioni sono dislocate tra il mercoledì e il giovedì, tra febbraio e marzo. È un primo focus, diciamo, del Solinas. Intendiamo fare queste proiezioni con la Apollo 11 una volta all'anno, no? Per dare un'idea delle cose che abbiamo premiato. In parte mi hai risposto già prima, però volevo chiederti con più precisione quali sono i criteri di scelta rispetto ai lavori che poi andate a finanziare. I criteri di scelta? Sì. Cioè, tu dici del lavoro della giuria del Solinas documentario? No, prima per la realizzazione dei lavori e poi il lavoro della giuria. Allora, sul lavoro della giuria, le giurie sono differenti di anno in anno. Ok. In ogni caso. Sì. Non c'è un criterio, non c'è una linea editoriale a Solinas. Questa è la cosa più bella della gestione di questo premio, e ogni tanto quando i giurati mi chiedono che cosa dobbiamo andare prima, dico dobbiamo scegliere il meglio che c'è. Certo. Nel senso che questa è la nostra libertà, non abbiamo una linea editoriale, quindi non c'è un criterio di una linea editoriale. Okay. Cerchiamo soprattutto delle storie dove esiste una drammaturgia, e soprattutto dove sentiamo che c'è una necessità o una curiosità o soprattutto un punto di vista dell'autore, perché può essere anche un tema già trattato, però forse quel punto di vista entra e ci fa vedere un aspetto di quell'argomento, di quel tipo di personaggio, in un modo che ci sembra non sia stato ancora trattato, o comunque curioso, o comunque ci vengono presentate delle realtà che neanche a noi giurati, no? sono conosciute. Quindi siamo assolutamente aperti, veramente assolutamente aperti. Dopodiché le giurie discutono in una maniera furiosa, questa è un'altra caratteristica del premio, perché i giurati sono tutti professionisti, ma hanno provenienze diverse, sono critici, sono documentaristi, sono produttori, direttori di festival, e quindi gli scontri sono molto forti già a partire dalla scrittura. E poi anche dopo il pitch, cioè, le discussioni sono veramente abbastanza violente. Senti Anna Maria, per quanto riguarda il calendario, ci puoi dare delle indicazioni internet, dei riferimenti? Sì, allora un'indicazione www.premiosolinas.it, e trovate il calendario di tutte le giornate. Sì. Su www.apollo11.it. Sì. E poi sulla pagina Facebook di Apollo 11. Perfetto. Allora, un in bocca al lupo, ti abbraccio e a risentirci presto. Ok, grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Direttrice, la direttrice del premio Solinas Anna Maria Granatello sul Focus, premio Solinas documentario per il cinema, in scena all'Apollo 11 qui a Roma da ieri 12 febbraio fino al 6 marzo. Stefania Bianchi, direttrice del Trailers Film Fest, per parlare del concorso Pitch Trailer 2014. Stefania, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, Pitch Trailer mi sembra un progetto interessante, in cosa consiste? Sì, Pitch Trailer è un'idea innovativa, è un concorso di Trailer Film Fest, il festival dei trailer cinematografici che ogni anno si tiene a Catania, ed è un concorso dedicato alle idee di film da realizzare, cioè gli autori indipendenti che hanno l'idea di un film e possono proporre la loro idea attraverso un trailer. Oh, e come si farà? Come in cosa consiste materialmente e quali sono i passi? Allora, materialmente occorre avere naturalmente un'idea e da quest'idea naturalmente si deve realizzare un trailer, e poi basta iscriversi sul nostro sito www.trailersfilmfest.com e entro il 30 giugno ci si può iscrivere, e dopodiché verranno selezionati i 20 pitch trailer da mettere in concorso e da presentare a Catania. Oh, dicevi della scadenza del 30 giugno, quali sono gli altri paletti per la realizzazione di questi trailer, se ci sono? Sì, allora il trailer deve essere minimo un minuto, massimo due minuti, e naturalmente deve essere un'idea originale, quindi colui che scrive la propria idea deve avere i diritti sia delle immagini che del suono, e dopodiché quello che conta è l'idea. Senti, e poi una volta per chi avesse successo, cosa succede? Allora, succede questo, che tutti i pitch trailer ammessi entro il 30 giugno verranno messi anche sul nostro canale YouTube, il Trailer Film Fest, perché c'è una novità, il 20° pitch trailer da mettere in concorso verrà scelto proprio dagli utenti di YouTube. Questo perché Trailer Film Fest vuole essere un festival che vuole interagire con il suo pubblico e quindi consentire al pubblico anche di scegliere pitch trailer da mettere in concorso. Gli altri 19 invece li selezionerà il comitato del festival. I 20 pitch trailer ammessi in concorso, quindi selezionati, saranno poi valutati da una giuria di qualità che solitamente è composta da direttori marketing delle principali case di produzione e distribuzione, e verranno presentati a Catania, e tra questi si sceglierà il migliore pitch trailer da premiare nella serata finale. Benissimo. Ci lasci i riferimenti, Stefania? Sì, allora, tutti i riferimenti del concorso Pitch Trailer potete trovarli sul nostro sito www.trailersfilmfest.com. 30 giugno è la scadenza, ma naturalmente c'è il regolamento con tutti i parametri tecnici per poter partecipare al concorso. L'iscrizione è gratuita, quindi non ci sono costi di iscrizione, e la cosa che ci tengo a sottolineare è che questa è una vetrina per poter far conoscere e poter promuovere la propria idea. Chissà, magari un produttore, un distributore potrebbe poi decidere di finanziarla e di produrla. Benissimo, Stefania, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Stefania Bianchi, direttrice del Trailers Film Fest sul concorso Pitch Trailer 2014. È con noi il regista Paolo Fazzini per il suo lavoro Made in Italy, che è distribuito in DVD a partire da domani, venerdì 14 febbraio. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, l'idea intanto che mi stuzzicava quando mi è stata comunicato questo evento, cioè dell'uscita in DVD del tuo lavoro, è questo connubio tra crisi e horror. Sì, che è un po' un concetto un po' dei registi horror vecchia scuola, insomma, un po' alla Romero, alla Carpenter, tanto, cioè, non voglio minimamente paragonarmi, però un po' il concetto è quello, cioè di combinare un genere cinematografico visto come di intrattenimento con delle tematiche attuali. La cosa non è stata programmatica, nel senso che era proprio un mio un mio desiderio riuscire a, a mescolare delle, così, degli ingredienti più, più strani tra il cinema d'autore, l'horror, l'attualità, il, e l'intrattenimento, anche perché è nato molto spontaneo anche il fatto di trarre tutto il plot, diciamo, la, le, i vari episodi che il protagonista vive, trarli tutti da fatti di cronaca realmente accaduti, quindi cioè, di solito sembra un, uno slogan pubblicitario, però in questo caso è vero, cioè tutti i fatti narrati sono tratti da, da articoli di cronaca. Una domanda, una curiosità, io non ho avuto modo di vedere il tuo lavoro, ma il, la crisi che colpisce il tuo protagonista, poi che effetti produrrà? Nel senso, lui comincerà a colpire a caso o si dà degli obiettivi che hanno a che fare comunque la, col suo stato di crisi? Guarda, sono, diciamo che può essere un elemento scatenante, perché comunque si parla della crisi economica che dall'America è arrivata in Europa e quindi in Italia. Ovviamente il film inizia con questo ragazzo trentenne che subisce un licenziamento e quindi si ritrova stretto tra spese, mutui, eccetera eccetera, ma è ovvio che non tutti i coinvolti nella crisi economica o tutti i licenziati diventano dei, degli assassini o dei serial killer, per cui ho voluto dare al personaggio anche, diciamo, un background psicologico diverso, quindi sì, ci sono dei flash familiari che ho voluto mantenere molto ambigui, però insomma si capisce che è già un personaggio disturbato di suo. Quello può essere l'effetto scatenante, la crisi può essere un effetto scatenante, e tutte le persone che ruotano intorno a lui sono, sono appunto ossessionate in maniera diversa dal raggiungimento di una posizione o da una fonte di guadagno, ecco. Mm-hmm. Il, i soldi sono il motivo, il ritornello che... Un po' il motore, che, insomma. Esatto, esatto. Senti Paolo, ecco, a proposito di disagio economico, dicevi che ti sei basato su episodi di cronaca. Hanno, oltre a questo appunto fenomeno della crisi, dei tratti in comune? Gli episodi che hai studiato, che hai avuto modo di... Guarda... hanno, adesso guarda, non ci avevo mai pensato, ci sto pensando adesso, il fatto di tutti i personaggi che vediamo nel film sono personaggi molto comuni, quindi si passa dal, dal ragazzo disoccupato che tenta lo spaccio per arrotondare al, diciamo, fannullone intrallazzatore che tenta di diventare politico, insomma sono tutte persone tra virgolette comuni, chiamiamoli comuni, quindi non, e che tentano di conquistarsi qualcosa, cioè la, la, poi la cosa adesso che mi sta venendo in mente, la cosa che mi hai chiesto prima sulla crisi economica e come si l'influenza di questa crisi economica, la cosa particolare è che il film, è vero che esce in questa settimana in DVD negli Stati Uniti, e anche questo è una cosa su cui riflettere, ma perché un film indipendente, diciamo horror, che si intitola Made in Italy, chiaramente ambientato in Italia, non riesce a trovare distribuzione in Italia, ma negli Stati Uniti sì? Questo è un interrogativo abbastanza particolare, però il discorso è che il film è stato girato circa 4 anni fa. Sì. Quando la, era il secondo anno della crisi economica, sì, per cui tutti mi dicevano: ah, ma questo film deve uscire perché altrimenti la crisi economica passerà e questo film sarà inattuale, cioè tutto questo che vedremo che sembrerà già passato. Ecco, esce adesso dopo 4 anni e mi sembra che la situazione, insomma, le persone coinvolte da questa crisi economica stanno sempre più aumentando e non stanno diminuendo. Sì, sì. Oh, mi dicevi della difficoltà di presentarlo in Italia, ti volevo chiedere un po' delle modalità di produzione indipendente che hai utilizzato e poi questa apertura verso il pubblico americano. Guarda, il discorso dell'apertura al pubblico americano è che adesso non per essere, non per parlare in soldoni, al di là comunque dell'attenzione che hanno verso tutti i tipi di prodotti, cioè quindi dal, per il cinema indipendente parlo, dal film d'autore al film horror, al film di fantascienza, al film drammatico, quindi non si all'estero non si pongono dei paraocchi. L'altro discorso effettivamente concreto è che il mercato è talmente vasto che se uno può andare a bussare a 20, 30, 40 distribuzioni americane, in Italia dopo che ne hai sentite due hai finito il giro, insomma, quindi già quello è un aiuto. E la cosa che comunque sorprende è questa, cioè che comunque non si pongono neanche il limite della lingua, cioè il mio film è sorgiato in italiano, sottotitolato in inglese, e anche così comunque non certo girare, far recitare in inglese aiuta ancora di più la distribuzione, però già così comunque non ci sono stati grossissimi problemi per i sottotitoli. Per quanto riguarda la modalità della produzione indipendente in Italia oggi c'è una giungla di temerari, cioè, per fortuna le tecnologie aiutano ad abbassare i costi e a riuscire a girare qualcosa davvero in maniera agile, sì. Però io sento sempre parlare di questo cinema indipendente, ma il cinema indipendente italiano sostanzialmente non esiste, cioè se non fosse per alcune persone che tentano di realizzare concretamente delle cose, cioè non mi sembra che ci sia una scena di produzione indipendente in Italia. Mm-hmm. Cioè abbiamo i cinepanettoni e le commedie e poi ci siamo tutti noi che ci arrangiamo per cercare di dare fuori dei prodotti. Questo è quanto, è molto diverso all'estero, sì. Ovviamente, cioè dove ci sono davvero dei budget destinati al mainstream, dei budget di produzioni che lavorano su budget ridotti per gli indipendenti, eccetera, eccetera. Ecco, qui da noi non è così. Sì. Allora ricordiamo l'uscita in DVD a partire da domani 14 febbraio di Mad in Italy. E Paolo Fazzini, ci dai anche dei riferimenti internet per chi volesse saperne di più? Guarda, non c'è un sito, ma c'è il Facebook, troverete tranquillamente tutti gli aggiornamenti sul Facebook di Mad in Italy e il film che è già ho visto ieri è già in vendita per esempio su Amazon internazionale o su eBay internazionale, quindi già da lì si può iniziare a trovare qualcosa. Benissimo, un abbraccio, a presto, ciao Paolo. Grazie, grazie mille, a presto, buon pomeriggio. Ciao. Paolo Fazzini, regista del film Made in Italy. Ecco noi il regista Carlo Interman, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Carlo, mi sa che è la prima volta, ciao, che ci sentiamo da questi microfoni. Sì, è la prima volta effettivamente. Allora, con te per parlare della rassegna Fermento Giorgiano al Teatro Valle Occupato, martedì 18, un primo appuntamento che lancerà poi tutta la rassegna, che sarà dal 27 febbraio al 2 marzo, giusto Carlo? Sì. Esattamente. Allora, martedì un appuntamento molto importante, un regista storico che è un po' il padre di tutta la nuova ondata giorgiana, Iosseliani. Allora, partiamo intanto da questo nuovo lavoro che presenterà proprio in anteprima nazionale, credo, martedì al Valle. Sì, non è stato mai visto Scientrapà, l'ultimo film di Oder Iosseliani. Ed è un film estremamente importante perché per la prima volta racconta un po' la sua biografia all'interno del film, racconta gli anni in cui si trasferisce dalla Georgia per problemi di censura in Francia e si rende conto che i problemi della censura incontrati in Georgia non sono poi così distanti da altri problemi che incontra in Francia iniziando la sua attività. Quindi è un film molto personale, molto legato alla sua storia e ha un senso iniziare la retrospettiva con lui perché alcuni degli autori che presentiamo successivamente nella rassegna sono registi che sono cresciuti sotto la sua ala, essendo anche assistenti, avendo collaborato con lui in altri progetti, quindi veramente un po' il padre nobile della nuova cinematografia georgiana. Probabilmente anche il fatto del trasferimento in Francia ha fatto sì che diverse sue opere siano arrivate in Italia, che altrimenti è abbastanza impermeabile a quanto viene da quelle zone. Sì, beh, nel caso di Iosseliani è sempre stato un po' particolare il rapporto, perché mentre i film venivano censurati in Georgia, ex Unione Sovietica al tempo, venivano invece promossi all'estero, proprio perché il cinema di Iosseliani, sì, è un cinema molto ironico, molto spesso è proprio un cinema estremamente vitale in cui si descrive la vita in generale, anche la capacità di vivere insieme, la convivialità, e quindi venivano mostrati al di fuori della Georgia proprio per dimostrare, dice, vedete che alla fine anche da noi si vive in modo simile al vostro, soprattutto in Italia, tra l'altro, perché nei film degli australiani si beve molto e si banchetta molto, quindi spesso c'era questa affinità, però la censura era interna, e questo ovviamente era quello che a lui dispiaceva molto. Poi gli australiani è anche particolare, perché non ha mai accettato lo statuto di esule in Georgia, quindi non ha mai usufruito di una legge al tempo francese che dava una serie di benefici qualora si fosse accettato questo statuto, perché ha sempre voluto ritornare, avere la possibilità di ritornare, perché la sua famiglia è sempre rimasta lì, e quindi non è mai non si è mai, diciamo, ritirato, è sempre vissuto tra la Francia e la Georgia, quindi è sempre tornato, perché il suo è un attaccamento straordinario con un paese, tra l'altro, e spero che la rassegna sia un'occasione per conoscerlo, veramente bellissimo da tutti i punti di vista, sia paesaggistico che culturale. Oh Carlo, prima di arrivare alla rassegna, parliamo dell'appuntamento di martedì 18, proprio con l'ultimo film di Josseliani, e com'è strutturata la serata? La serata ci sarà appunto la proiezione alle 9, che sì, sarà introdotta da Enrico Ghezzi, che è oltre che un assiduo collaboratore del Valle, anche uno degli amici più cari di Otar, e alla fine della proiezione seguirà un dibattito in cui chiunque avesse curiosità sugli australiani, che sarà presente, potrà rivolgere direttamente delle domande. Appunto, ci teniamo particolarmente perché il film appunto viene visto per la prima volta in Italia ed è stato sottotitolato per l'occasione, appositamente, grazie anche al sostegno appunto del Ministero della Cultura georgiano, quello dell'Ambasciata georgiana e del Centro Nazionale di Cinematografia georgiana. Carlo, passiamo alla rassegna. Dal 27 febbraio al 2 marzo, come l'abbiamo strutturata? Allora, la rassegna ha diversi appuntamenti e non c'è solamente la proiezione dei film. Allora, si apre il 27 febbraio con quella che in georgiano si chiama Subra, che è appunto un banchetto sostanzialmente georgiano, quindi avendo la possibilità di degustare anche dei piatti georgiani. Questo avverrà alle 19 nel foyer del Teatro Valle Occupato. Subito dopo ci sarà la proiezione in blu, ma ogni proiezione è presentata e introdotta da un critico, in questo caso è introdotta da Mario Sesti, che appunto introdurrà il film, e dove ci sarà un dibattito con la direttrice del Centro Nazionale di Cinematografia georgiano, Iana Gialenice, che ha prodotto il film. Sono tutti film finanziati anche dal Centro Nazionale di Cinematografia, che è molto attivo in quest'ultimo periodo. Questo per quanto riguarda il 27 febbraio. Il 28 invece continueremo con l'opportunità di degustare i vini georgiani, che hanno una lunghissima tradizione, sono pochi conosciuti in Italia, ma in Russia, in Germania, in Austria sono molto conosciuti e apprezzati, quindi c'è questa possibilità per chi viene alle 19. E poi alle 21 proiettiamo un secondo film che si chiama Keep Smiling, e che sarà introdotto da Anna Maria Pasetti, e sarà introdotto sempre con una rappresentante del Centro Nazionale che si chiama Nina Shevarshib, che è la capo progetti. Dopo questo incontro, che appunto è venerdì, sabato 1 marzo invece iniziamo alle 17, quindi un po' prima, nel pomeriggio, con un incontro proprio con il Centro di Cinematografia Giana. Il tema dell'incontro è appunto girare in Georgia, e si parlerà in questa occasione delle opportunità produttive, le agevolazioni che possono essere richieste e ottenute girando in Georgia. Quindi ci sarà tutto il board del Centro Nazionale di Cinematografia Georgiana a presentare appunto questa opportunità. Alle 19 immancabilmente si beve ancora con i georgiani, questa sarà la costante di tutta la rassegna. Alcol e pellicole, insomma. Esatto, e alle 21 invece proiettiamo un film che si chiama The Hotel Bank, che sarà introdotto da Bruno Roberti, il critico Bruno Roberti. Chiudiamo poi la rassegna domenica 2 marzo con il 19 con un piccolo assaggio di musica georgiana con coro georgiano, e poi alle 21 proiettiamo il film The Machine Which Makes Everything Disappear, che è un documentario che sarà introdotto da Gianna Azzaro, critico e selezionatore di molti festival, tra cui Vision Durell e il Festival di Roma. I film raccontano molto della Georgia, perché quasi tutti sono uno spaccato della cultura georgiana e anche delle ultime vicende della Georgia. Alcuni per esempio trattano il tema di questa regione contesa tra la Georgia e la Russia, si chiama Abkhazia. Un altro film, per esempio il documentario che presentiamo l'ultimo giorno, segue il casting di un ipotetico film e seguendo questo processo, in realtà è un viaggio nelle zone rurali della Georgia e nelle zone meno conosciute. Keep Smiling è un film che parla appunto di un concorso di bellezza, una sorta di truffa in realtà, all'interno della quale si trovano delle giovani madri georgiane che cercano di costruirsi un avvenire su questo, e invece in Bloom è la storia di due giovani ragazze appunto nel mezzo anche del conflitto, in un momento di transizione della Georgia agli anni 90. Quindi è veramente un'occasione per conoscere la nuova cinematografia, che sta avendo grande successo in tantissimi festival internazionali. È proprio il caso, abbiamo chiamato Fermento Georgiano perché è proprio un momento di rinascita un po' del cinema georgiano, ed è un'occasione anche di conoscere l'intero paese attraverso, certo, la cinematografia, certo, uno dei modi migliori. Bene, Carlo, io ti ringrazio, ci vediamo in sala. Grazie, ci vediamo, a presto. Ciao, a voi. Un abbraccio. Ciao. Carlo Interman per parlare della rassegna Fermento Georgiano al Teatro Valle Occupato, martedì 18 con l'ultimo lavoro di Otar Iosseliani, e poi la rassegna dal 27 febbraio al 2 marzo. Per quanto riguarda Visionari è tutto, si torna giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info, tutte le informazioni sulla scaletta le trovate sul sito della radio, ondarossa.info, la voce trasmissioni Visionari, ma anche sulla pagina Facebook di Visionari.